Perché la tua foto già mi parla di te, le carezze, il tuo profumo in me hanno fatto un tatuaggio, ha incastrato il mio coraggio, la valigia, i miei pensieri. Perché i momenti che ho passato con te mi hanno reso più felice, anche se il mio cuore è trascinato, le pazzie del passato, tanta fragola e gelato. Di amare.